Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Anche oggi insieme con l'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, ancora con noi al telefono il presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. La figura che tocchiamo oggi è una figura importante, per cui magari poi spiegheremo dove stanno i problemi, le gabelle burocratiche. Parliamo dell'amministratore di sostegno. Che cos'è l'amministratore di sostegno? Sì, allora innanzitutto Francesco voglio premettere che l'Adico ha uno sportello che è dedicato proprio all'amministratore di sostegno, perché purtroppo queste figure scopriamo cosa sono quando ne abbiamo bisogno, e dal momento che ne abbiamo bisogno cominciano i problemi e le persone, abbiamo notato, oltre a non sapere cos'è, non sanno neanche a chi rivolgersi. Normalmente l'amministratore di sostegno deve essere una figura che tuteli gli interessi di una persona che magari è anche in grado di intendere e volere, ma non è autosufficiente. Perché pensiamo, per esempio, non so, una persona malata che ha bisogno di andare in posta a pagare le bollette o a ritirare la pensione, oppure di sbrigare delle pratiche burocratiche, come può essere anche un pagamento dell'IMU, visto che tra poco si dovrà anche parlare di questo. E pensando appunto a questo genere di problemi, convinti di continuare a dare un servizio ai cittadini che molte volte non sanno dove andare, l'Adico ha istituito uno sportello, e devo dire che è uno sportello anche molto attivo, perché il senso di questo sportello è quello di sbrigare proprio la pratica, mettere in condizione le persone di nominare un amministratore a tutti gli effetti, e quindi aiutare chi non è in grado di agire da solo nel disbrigo delle sue pratiche quotidiane. Capito cos'è l'amministratore di sostegno, ci sono dei problemi, no? Perché qualcuno dice che dovrebbe essere un avvocato, e invece voi dite che non è così. Purtroppo Francesco, questo qualcuno oggi è una situazione che si è determinata con il Tribunale di Venezia, perché una signora, scusa, è venuta all'Adico, il quale ha ricevuto le indicazioni per poter agire e quindi nominare amministratore di sostegno. Però è capitato che quando si è recato nel Tribunale di Venezia, l'ha detta alla ricezione degli uffici, degli atti, ha detto alla socia che il deposito della richiesta era necessario la procura legale attraverso il mandato. Quindi, tradotto, la signora doveva avere un avvocato che si assumesse un mandato per poter salvaguardare gli interessi della persona che lei assisteva. Per noi invece non è necessario che la persona che assista agli interessi di una persona non autosufficiente debba essere un avvocato, ma ricordiamo che può essere una qualsiasi persona che si assume quest'onere e questa responsabilità, anche perché riteniamo che affidare i propri interessi a un avvocato possa risultare molto oneroso, cosa che dobbiamo assolutamente, anche come associazione ma anche come metodologia, evitare assolutamente, perché riteniamo che un figlio possa essere amministratore di sostegno di un padre come la figlia o un nipote di un nonno o di uno zio. Quindi noi riteniamo assolutamente, appunto, questa risposta che ha avuto la socia, e come ufficio stiamo richiedendo tutti gli atti, fare chiarezza su quanto accaduto, perché a nostro avviso c'è qualcosa che è sfuggito in questa vicenda. Eh sì, immaginiamo appunto una mamma che è malata, che non può muoversi, il figlio, se c'è, può tranquillamente andare a fare le cose per lei, e non c'è bisogno di avere un avvocato per magari andare a pagare l'IMU o quant'altro, o a portare delle carte di qua piuttosto che di là. Insomma, è veramente una cosa alquanto assurda anche quella che ci racconti, Carlo, ma evidentemente vi è capitato, e quindi lo facciamo presente a tutti gli amici di Blu Radio Veneto. Cosa dobbiamo fare? Aspettare che il Tribunale di Venezia dia delle risposte? Ma io mi auguro che sia stata un'incomprensione dell'addetto, perché è una vicenda che si è sviluppata proprio in questi giorni, di cui noi come uffici legali non abbiamo esitato subito a contestare, però è anche vero che adesso stiamo anche noi facendo chiarezza su quanto è accaduto, perché non ci torna assolutamente di tutto questo. Però non che non crediamo alla sorte, sia chiaro, perché quanto detto è realmente accaduto, ma ci auguriamo che sia un qualcosa che sia stato male recepito da parte di qualche addetto, perché ricordiamo come l'amministratore di sostegno può essere tranquillamente, come capita praticamente in tutti i casi, un familiare. Come detto, non parliamo di persone che non sono in grado di intendere e volere, ma che non sono magari autosufficienti, ma dobbiamo ricordare, come abbiamo fatto poco fa, che è una figura obbligatoria e che l'Adico, proprio per dare un aiuto ai cittadini, ha messo a disposizione questo sportello, che è attivo tutti i giorni. Le persone possono chiedere tranquillamente informazioni e assistenza, e i nostri esperti sono a disposizione gratuitamente per darla. E allora, associazionedifesaconsumatori.it è il vostro sito. Diamo anche il numero di telefono, che non lo diamo mai, Carlo. Sì, 041 53 49 637, e possono tranquillamente anche scriverci all'indirizzo mail info@associazionedifesaconsumatori.it. Grazie a Carlo Garofolini, l'appuntamento con l'Adico è per la settimana prossima. Grazie a te, Francesco, e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.